4 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Giorgia Meloni, 38 anni, romana della Garbatella, inizia la sua militanza politica, intanto per mantenersi agli studi lavora come babysitter, cameriere, barman al Piper. Nel 2000 diventa dirigente nazionale di Azione Giovani, nel 2006 eletta alla Camera la più giovane parlamentare di quella legislatura. Di Mussolini dice: è un personaggio complesso e va storicizzato. Delle leggi ad personam di Berlusconi dice: sono leggi che Berlusconi ha fatto per sé, ma sono perfettamente giuste. Nel 2008, 31 anni, è ministro per la gioventù del quarto governo Berlusconi. Nel 2011 scrive: noi crediamo sulla condizione dei giovani italiani durante la crisi. Poi nel 2014 fonda e diventa presidente di Fratelli d'Italia. Domenica a Bologna con Berlusconi e Salvini è consacrata definitivamente la terza forza dell'alleanza di centrodestra nella manifestazione voluta e organizzata da Salvini, che Crozza ieri sera ha raccontato così. Meloni, mi scusi, si è ripresa dal bagno di folla? 100.000 persone in Piazza Maggiore a Bologna, l'ha scritto Salvini su un tweet, un successo pazzesco. C'è qualcuno, Meloni, che ha fatto il calcolo? La piazza è 115 metri per 60, significherebbe 23 persone a metro quadro. Cioè 23 persone in un metro quadro, non ci stanno nemmeno liofilizzate. Allora quanti erano, Meloni? Beh, erano tanti, dire che erano tanti. Io l'ho visto soprattutto da una ripresa fatta dall'alto, perché dal palco non ci si rendeva bene conto, ma obiettivamente la gente c'era. Senta, comunque, a Bologna, su quel palco, è nato il nuovo centrodestra intorno a Salvini, d'accordo? Beh, sicuramente si rincompatta il centrodestra, poi attorno a chi, questo lo decidono gli italiani. Cioè, sarà Salvini leader del centrodestra o no? Ma guardi, io ho sempre detto che le leadership non si definiscono a tavolino, non le decidono i segretari di partito. Lei dice che si scelgono con le primarie, no? Si scelgono in generale con il consenso degli italiani, che è una cosa che sembra non interessare più dalle nostre parti, ma insomma, Minoli, abbiamo votato pure in Birmania, chissà che pure in Italia non si recuperi la democrazia, ecco. Diciamo che credo nella democrazia. Nelle primarie, quindi. Berlusconi però le primarie non le ha mai volute, Salvini nicchia. Insomma, potete spaccarvi sulle primarie prima di partire. Ma le primarie sono uno strumento, non è che ci si debba innamorare degli strumenti. Di metodi ce ne possono essere a decine. Io dico semplicemente: l'unica cosa che non si può fare è un accordo di vertice seduti intorno a un tavolo tra segretari di partito, perché quella roba lì non funziona. Finita. Ma il Berlusconi di Bologna è ancora un protagonista centrale della politica italiana? Ma Berlusconi è sicuramente un protagonista della politica italiana, purché non pretenda di giocare lo stesso ruolo che ha giocato vent'anni fa, negli ultimi vent'anni. È come se Maradona volesse tornare a giocare nel Napoli, no? Cioè, potrebbe essere un ottimo allenatore, un ottimo presidente di squadra, un ottimo tante cose, non un ottimo punto. Quindi quando dice: senza di me il centrodestra non c'è, insomma, ragione e torto insieme. Beh, sicuramente Forza Italia oggi è una parte consistente, finché gli italiani continueranno a suffragare il partito di Berlusconi, bisognerà fare i conti con il partito di Berlusconi. Ma di quello che ha detto, democrazia anche questa. Ma di quello che ha detto Berlusconi, cosa l'ha colpita a Firenze? Mi ha fatto sorridere il fatto che facesse le domande alla piazza, che è una cosa, insomma, che gli ho visto fare tante volte, perché alla fine ha sempre questa capacità di, insomma, no, questa verve, questa capacità di coinvolgere le persone, che secondo me è una cosa molto importante. Senta, ma il punto centrale del piano anti-Renzi lanciato a Bologna qual è? Rimettere gli italiani al centro delle scelte della politica, cioè esattamente il contrario di quello che fa il governo Renzi. Noi vorremmo una politica, come accade in tutte le nazioni del mondo, che metta i propri cittadini prima di tutto il resto e prima degli altri. Ma Berlusconi ha detto che Renzi, secondo lui, gli telefonerà per chiedere aiuto per cambiare l'Italicum. Lei pensa che vorrà cambiare l'Italicum? No, io credo che Renzi non voglia e non possa in questo momento cambiare l'Italicum, che però invece sarebbe da cambiare non tanto per il tema del premio alla coalizione, il partito che ci interessa fino a un certo punto, ma per questa roba ridicola dei capilista bloccati, che significa rieleggere il 70% dei parlamentari bloccati e decisi dalle segreterie di partito. E quindi, ma secondo lei, non si cambierà l'Italicum? Alla fine non si cambierà, secondo me. Ma Berlusconi, se tutto va bene, può fare allora il padre nobile del centrodestra, insomma Maradona in panchina, quella roba lì? Beh, può fare, può giocare un ruolo molto importante, però insomma penso che Berlusconi sia arrivato a un momento della sua vita nel quale si deve porre il problema anche di che cosa lascia della sua eredità. E che in qualche maniera non finisca tutto, no, con lui, che possa andare avanti una storia politica. Penso che oggi lui si renda conto che può giocare in questo senso un ruolo importantissimo, anche molto bello. Senta Meloni, comunque dopo Bologna, a Roma il candidato sindaco sembra essere lei, così? Bah no, non si è ancora parlato realmente di che cosa fare a Roma e neanche nelle altre importanti città, ecco, nelle sì. quali no, si no, vota. No, ma volevo restare un momento a Roma. Quando Berlusconi, ha detto a Roma vedo bene Marchini, l'è preso un colpo o si è sollevata? Bah no, mi è preso un colpo, no, e neanche sono stata sollevata, francamente mi è dispiaciuto, perché io penso che il centrodestra non possa e non debba rischiare di andare in ordine sparso a Roma quando si può vincere e restituire dignità a questa città, ma anche dare una spallata decisiva, ecco, al governo nazionale. Ma allora andare con Marchini significa spaccare il centrodestra, perché Fratelli d'Italia Marchini non lo può sostenere, per esempio. Ma visti i sondaggi, Marchini fa paura, perché Marchini è forte nel sondaggio. No, ma il tema non è che mi fa paura, no. Il tema è che non penso che sia un candidato spendibile per la nostra area politica, per chi vuole costruire una discontinuità. Ma allora scusi, allora mettiamola al contrario. Se candidato fosse lei, si aspetta di essere appoggiata da Marchini? No, non mi aspetto di essere appoggiata da Marchini, soprattutto diciamo in un primo turno. Io penso che Marchini non rinuncerà alla sua candidatura, indipendentemente da chi lo sostiene. Ma ne avete mai parlato? È la cosa che non no, io non ci ho mai parlato sinceramente con Marchini. È la cosa che non torna, no, perché se lei fa caso, Marchini un giorno è sostenuto dal centrodestra, un giorno dal centrosinistra, un giorno dice che non vuole la politica, perché la sua candidatura è in campo indipendentemente da chi lo sostiene, quindi immagino che rimarrà in campo, ecco. Lei però se la sostenesse sarebbe soddisfatta? Se mi candido mi porrò il problema. Va bene, ok. Ecco, lei che viene dalle borgate, che Roma sogna? Cioè cosa si porta adesso, dietro da quell'esperienza? Adesso sogno una Roma che possa essere vagamente all'altezza della sua storia in termini di dignità, in termini di orgoglio. Questa è una città in cui è enorme oggi la discrasia, la differenza tra la storia, l'identità, la forza, la potenza che Roma ha e quello che si vede ogni giorno, ecco, una storia di degrado. Ma di... da sindaco lei cosa farebbe subito? Ma guarda, non è facile dirlo, però penso insomma... che oggi la prima cosa che serve a Roma sia decoro. Decoro e attenzione per le periferie, per una città che è cresciuta a dismisura senza progetti urbanistici chiari e che ha abbandonato milioni di persone nel più assoluto degrado, che oggi sono quelle che soffrono di più la condizione della capitale. Ecco, lei però in realtà qualcosa avrebbe già potuto farlo con Alemanno, visto che ha governato con lui fino all'ultimo. Sente la responsabilità di questa condivisione? Ma io penso che la destra complessivamente debba fare i conti con il fatto che la sua passata esperienza amministrativa, anche se qualcosa di buono è stato anche fatto, è stata un'esperienza insufficiente. Del resto, se Alemanno avesse governato bene, se si fosse sarebbe stato rieletto. Penso che bisognerebbe costruire eventualmente un progetto di totale discontinuità con quello che è stato, anche imparando insomma un po' dagli errori che si sono fatti. Ecco, infatti le dico, ma lei si è mai accorta degli albori di Mafia Capitale mentre governava con Alemanno? Allora, intanto io non ho mai governato con Alemanno. Chiariamo, perché chi non lo sa pensa che ragione, ha fatto l'assessore con Alemanno. Fratelli d'Italia. Io negli anni d'accordo. Della giunta Alemanno avrei visto il comune di Roma tre volte. Però, i suoi. C'era allora il Popolo della Libertà e eravamo tutti nel Popolo della Libertà, perché poi insomma bisogna anche ricordare che quando noi abbiamo fondato Fratelli d'Italia, Alemanno era ancora il Popolo della Libertà, quindi abbiamo fatto anche altre scelte. Dopodiché no, ovviamente non ci siamo accorti che c'era un problema diffuso come quello di Mafia Capitale, ma mi consenta di dire, non ce ne siamo accorti con Alemanno e non ce ne siamo accorti con Veltroni, con Rutelli e tutto il cucuzzaro, si dice a Roma dalle mie parti, perché non è che il problema di Mafia Capitale se l'ha inventato, Allora, gli anni del centrodestra. Mettiamo così, attenzione. Che cosa ha capito che prima non sapeva di come funziona Roma? Dopo che esperienza. La corruzione è molto più diffusa di quanto sembri, che non è un problema ascrivibile solamente alla classe politica, perché quello che esce da Roma Capitale è che ci sono esponenti di qualunque ambito della capitale che in qualche maniera sono coinvolti, ci sono i politici, i burocrati, gli imprenditori, ci sono problemi che riguardano i vigili, c'è un po' di tutto, e che quindi è un problema di mentalità che bisogna affrontare non per facile, prima a Roma, che facile. È la cosa più difficile del mondo. Senta, intanto lei adesso è riuscita a far fuori la vecchia guardia di Aene, ha conquistato la fondazione con annessa la cassa. Era importante? No, era importante che la fondazione riconoscesse che gli eredi della destra italiana, nel senso le persone che hanno raccolto quella identità e l'hanno riportata in Parlamento, è Fratelli d'Italia. Questa è la cosa importante di quello che è uscito dall'assemblea della fondazione. E nella cassa quanto ha trovato? Ma tanto la cassa non è utilizzabile per fare partiti o politica come qualcuno avrebbe voluto. Serve? Beh, a fare la fondazione, a tenere vive delle idee politiche, dei valori di riferimento. E quanto c'era a fare dentro? Cultura. Tanto. Ci sono diversi milioni di euro. Ah. Sì. Ma fare politica servono i soldi? Abolite il finanziamento pubblico, dove si possono trovare? Io sono contrario all'abolizione del finanziamento pubblico, la considero un'idiozia. Noi scopriremo troppo tardi quanto abbiamo peggiorato la situazione abolendo il finanziamento pubblico, perché vede, noi siamo passati da un sistema nel quale non si controllava il finanziamento pubblico, per cui coi soldi ci compravi diamanti, ci facevi le speculazioni, a abolire il finanziamento pubblico, come se non si potesse banalmente governare il finanziamento pubblico per evitare che la gente ci facesse con delle regole. Che cosa accade quando tu vuoi un sistema esclusivamente finanziato dai privati? Ti trovi un Parlamento che sta in mano agli interessi dei privati, che è esattamente quello che accade nel famoso modello americano, certo, che a noi tanto osannano, cioè che i parlamentari votano quello che la casa farmaceutica che li ha finanziati gli dice che devono votare. Basta vedere quanto incassano per le campagne elettorali. Esattamente. E io non voglio un sistema così, non voglio un sistema nel quale voto quello che mi dicono di fare le lobby. Senta, lei è la prima donna segretaria di un partito, in più di un partito di destra. È il segno di una rivoluzione? No, credo che sia il segno del fatto che le donne spesso sanno fare bene e che gli uomini devono farci i conti. Diceva, io lo cito sempre, Charlotte Whitton, era sindaco di Ottawa negli anni 50, lei diceva: una donna deve fare ogni cosa due volte meglio di un uomo per essere considerata brava alla metà, ma per fortuna non è difficile. L'altra donna di destra, leader in Europa, è Marine Le Pen. Politicamente lei si sente affine in cosa? Politicamente mi sento molto affine con Marine Le Pen nella lettura che lei dà dello scontro aperto oggi in Europa, che non è più tanto uno scontro destra-sinistra tra ideologie, ma tra alto e basso, cioè tra diritti dei molti e interessi dei pochi. Il grande scontro anche con le istituzioni europee è questo, no? Che l'idea è che queste istituzioni europee difendono delle oligarchie di potere, schiacciando se necessario i diritti e i bisogni di popoli interi, di milioni di persone. E invece di meno che cosa la sente distante? In che cosa? Beh, alcune posizioni di Marine Le Pen io non le condivido, ad esempio la pena di morte. Io sono assolutamente contrario alla pena di morte perché credo nella sacralità della vita, e invece so che il Front National ha su questo una posizione favorevole. Senta, onorevole Meloni, ma quando Fini dice che lei sembra una Salvini sbiadita, le fa male? Beh, mi dispiace, ma francamente non mi aspetto di essere sulla stessa linea politica di Fini. Ma è stato importante Fini, perché insomma nella sua io l'ho visto un Monti sbiadito e insomma mi sembrava molto peggio. È stato importante Fini nella sua vita politica. Importantissimo, una persona alla quale io devo moltissimo, però e questo lo dico perché spesso si fa il riferimento alla riconoscenza, ecco. Una cosa è essere fedeli, una cosa è essere leali. Io sono una persona leale, ma non sono disposta a rinunciare a quello che sono per seguire qualcuno all'inferno perché decide di sbagliare strada. Io sono sempre stata leale con Gianfranco Fini, non avrei potuto seguirlo quando le sue idee non erano più quelle della destra italiana. E cosa gli è capitato secondo lei a Fini? Non lo so, sinceramente, me lo chiedo da anni. Me lo chiedo da anni e ne sono molto dispiaciuta perché davvero al tempo, insomma, oggi avrebbe potuto essere davvero una figura di riferimento per l'Italia intera. Non so cosa sia capitato, ho tentato di capirlo e non ci sono mai riuscito. Senta, di lei una cosa mi ha colpito molto: prima era sempre cupa, adesso è sorridente, ha cambiato look, il successo che fa bene? Beh no, io non ho mai preso così bene il successo, nel senso che anzi, io più le cose vanno bene più mi viene l'ansia e divento cupa, per paradosso, quindi non credo che sia afferibile al successo. Allora però le fa bene l'amore? E può essere che sia quello. L'amore incide molto, l'ha fatto cambiare anche il look. Sicuramente un po' avere una dimensione privata, serena, un ambito nel quale tornare, nel quale puoi lasciarti andare, può aiutare. Insomma, senta, sì. Chi la consiglia di più oggi? Beh, mi consigliano tante persone. Io non sono il famoso uomo solo al comando. Io ogni decisione che prendo la verifico con tante persone e un po' cerco di farmi consigliare anche dalla ragazza che ero quando avevo 16-17 anni. Ho fatto i conti con il fatto che non potrò mai essere più, come posso dire, più indisponibile al compromesso di come ero quando avevo 16 anni. Quindi quando devo fare delle scelte importanti provo a chiedermi che cosa avrei fatto quando avevo 16 anni. È soddisfatta della risposta che si dà? Quando non sono soddisfatta cambio strada, costi quel che costi, e ogni tanto l'ho pagato. Ho letto che la prima persona che chiama quando vuole sfogarsi è sua sorella, che è la persona più importante della sua vita. Perché la più importante? Beh, perché mia sorella Arianna è la persona più straordinaria che io abbia incontrato, e poi perché noi, avendo avuto una situazione familiare un po' altalenante, un po' particolare, siamo state il primo nucleo. Eravate, no? Voi, cioè, la è famiglia. La persona, è la persona con la quale io, mia sorella, abbiamo un anno e mezzo di differenza, mi raccontava le favole quando avevamo 5 anni, quindi insomma un po'. Senta, ma il suo difetto peggiore qual è? Che non prendo mai niente con leggerezza. Sono una persona troppo pesante che non riesce mai a dire vabbè. E lui si stufa? Ogni tanto. Ogni tanto sì, ogni tanto sì, però sì. Neanche lui è leggerissimo. No. Senta, ma che cos'è che non vorrebbe mai sentir dire di sé? Che non ho coraggio, che sono una vigliacca o che non sono preparata. Senta, lei ha 36 anni, l'ho detto, dice che vuole dei figli e che deve rallentare. Allora niente, sindaco. Facciamo prima. Beh, allora, sicuramente il adesso sorvolando sul tema del sindaco, sicuramente oggi il tema della maternità, insomma, io comunque vado verso i 39 anni, poi sembro sempre giovane perché sono bassa, ma la verità è che anche io, insomma, mi avvicino alla quarantina e quindi bisogna fare i conti con il fatto che forse la cosa più importante che puoi fare nella tua vita, forse il segno più grande che puoi lasciare del tuo passaggio, te lo lasci sfuggire perché pensi di fare altre cose. Quindi possiamo dire che la Meloni forse non è in corsa perché vuol fare la mamma. Ma guardi, per me sarebbe francamente una sconfitta dover rinunciare perché a fare qualcosa della mia professione, della mia vita, perché voglio anche essere una mamma. Penso che dovrebbe essere una scelta di libertà e non un'imposizione. Ecco, ma io allora voglio dire, le donne che portano avanti la maternità e sono magari ministro, super manager, sono un modello per lei oppure no? Guardi, nessuno dei due. Penso che dobbiamo evitare di trasformare sia chi sceglie che dobbiamo evitare di trasformare chi sceglie di arrivare alla maternità continuando a lavorare, di essere un modello, perché questo può rischiare da una parte di far sentire in colpa tutte le donne che invece scelgono di difendere i diritti della maternità con i quali noi, per i quali noi ci siamo tanto battute, però deve essere una scelta di libertà. Questi diritti delle donne conquistate sul lavoro spariscono davanti alla carriera o no? Non devono sparire davanti alla, deve essere una libera scelta, cioè se io voglio lavorare fino all'ultimo giorno di gravidanza perché sento di stare bene così, devo poterlo fare e devo avere gli strumenti per farlo, che è il grande tema in Italia, che le donne sono costrette a scegliere. Certo. Se invece voglio fare gli ultimi 3 mesi come prevede la normativa di maternità, devo poterlo fare senza che nessuno mi dica che allora non sono stata all'altezza. Così. Per allora questo. Possiamo dire, la Meloni forse fa un figlio. Ma forse prima si candida e se perde fa un figlio. Ammettiamo così. Vediamo, allora se rimango incinta prima della presentazione delle liste, invece. Senta, ma è vero che si irrita quando le dicono che è fascista? Bah no, mi fa sorridere, perché? Devo dire la verità. Perché è la classica cosa che ti dicono quando non sanno più come argomentare un'idiozia. Senta, oggi in Italia comanda l'Europa, l'ha detto anche prima. Che cosa non le piace di questa Europa? Un po' l'ha detto parlando della Le Pen, ma... Che è un comitato d'affari, d'affari di usurai. Niente a che fare con i bisogni della gente, ma guardi, a me ha fatto molto sorridere quest'ultima trovata dell'Unione Europea, no? Ci hanno detto per anni noi non potevamo cuocere la pizza al forno a legna perché è antigenico, poi adesso hanno detto che sono commestibili gli insetti. Voglio dire, gli insetti se li mangi la Merkel, che io voglio mangiare la pizza cotta nel forno a legna. E che cosa le piace invece di questa Europa? Beh, mi piaceva l'identità europea, mi piacevano le radici, la civiltà europea. Io sono una persona che difende la propria civiltà, però questa Europa dei burocrati, dei tecnocrati è la negazione dell'Europa delle patrie e delle identità. Senta, ma in un mondo attraversato dalla violenza del terrorismo, nella comunità internazionale, lei vede qualcuno che ha idee chiare sul da farsi? Ma idee chiare purtroppo non molto. Cioè, mettiamola così, lei in Siria per esempio bombarderebbe l'ISIS? Assolutamente sì. Perché? Io credo che sia un'umanità tanto al chilo ridicola quella di un'Europa che dice che noi dobbiamo accogliere i siriani che arrivano da noi senza porsi il problema di da che cosa scappano i siriani. Se vuoi essere veramente umano devi andare a combattere le cause da cui questa gente scappa, perché chi arriva qui, la vita di chi arriva qui non vale meno della vita di chi muore sotto le bombe o di chi muore massacrato dall'ISIS in Siria o in Iran o in Libia o in Nigeria. Io penso che la comunità internazionale, e se fossi Renzi questo andrei a sostenere, dovrebbe intervenire a fianco dei governi legittimi, perché ci sono governi legittimi che in Siria, in Iraq, in Libia, in Nigeria, eccetera, combattono contro il fondamentalismo, che è il nostro principale nemico. Ma come alleato preferisce Putin o Obama? No, oggi assolutamente Putin. Perché? Credo che Obama sia il peggior presidente degli Stati Uniti in tema di politica estera della storia. Penso che tanta parte dei danni che noi siamo vivendo siano frutto delle sue scelte Ma di politica estera. Lei parla spesso, l'ha accennato anche adesso, di orgoglio italiano. Anche Renzi però parla molto dell'orgoglio italiano. Va in giro, canta l'inno nazionale. Siete più vicini di quanto immagina in realtà. Beh, guardi, mi dispiace, ma la mia idea di orgoglio nazionale non è quella che ha Renzi. Perché? Perché io vorrei un'Europa e una Italia che fosse effettivamente riconosciuta per il suo valore sulla scena internazionale. Ma lei mi dica che cosa? Noi abbiamo sottoscritto le sanzioni contro la Russia, che sono una cosa ridicola, che ammazza le nostre imprese, per mandare la Mogherini a fare l'alto commissario della politica europea. Non vengono invitati neanche... Vanno abolite quindi le sanzioni, secondo lei? Assolutamente sì, l'Italia dovrebbe assolutamente ritirare la sua firma, sono una cosa idiota. Tra l'altro sono una cosa idiota non solo per l'economia italiana ed europea, perché poi nessuno dice che i pezzi di mercato che noi stiamo perdendo li recuperano altri, certo, no, ovviamente, ma anche perché in un momento storico come questo noi non abbiamo nessun interesse di spingere la Russia verso la Cina e verso l'Asia, è una cosa stupida. Ma questa legge di stabilità che fa sue molte proposte del centrodestra, cos'è che proprio non va? Che è pagata in deficit, che si fanno marchette oggi che pagheranno i nostri figli domani, che non e vuol dire abbassare le tasse, devi tagliare la spesa pubblica. E invece che va? Beh, sicuramente abolire le tasse sulla prima casa è una cosa che noi andiamo chiedendo da anni e che per primi abbiamo proposto. Beh, per esempio, si fa, è una cosa importante. Dimostra di funzionare, quasi un milione di lavoratori in più. Purtroppo non abbiamo il tempo per spiegarlo, ma non è esattamente così. Il dato vero è che ci sono 75.000 nuovi posti di lavoro, cioè nuove persone che lavorano a un costo di quasi 2 miliardi di euro, significa 20.000 euro per posto di lavoro. Quindi l'INPS non dice la verità? No, l'INPS dice un dato che riguarda le nuove assunzioni, non tenendo conto della differenza tra i contratti trasformati e i nuovi contratti. Le vere persone nuove che lavorano sono 75.000, ci sono costate 2 miliardi di euro, non è un po' tanto? Senta, ma è stata scritta con la mano destra, come dice Alfano, oppure no, sta legge di stabilità? Guardi, Alfano, penso che nel partito di Alfano abbia ragione la Lorenzin quando dice che devono togliere la parola destra dal nome. Senta, ma mi ha detto, cioè lo vede assimilato oramai? Ma totalmente. Ma mi ha detto quello che non va di Renzi, l'ha detto tutte. Ma una cosa che va c'è? È coraggioso ai limiti dell'incoscienza, secondo me. Che il coraggio volte può per essere... un leader politico, però, è, è tanto. È una cosa importante. No, beh, questa è una cosa che a me piace, anche se, ripeto, ai limiti dell'incoscienza, e quando giochi con la vita della gente devi fare attenzione. Però sicuramente non si può dire che non abbia coraggio. Insomma, siate realisti, chiedete l'impossibile. Slogan del 68. Esatto. In qualche modo. Senta, onorevole Meloni, le faccio un'ultima domanda. Di lei si dice che è una secchiona. L'ha detto anche prima, che studia, che approfondisce. Mi dice quali sono i pensatori più importanti che sono nel suo Pantheon? Ma guardi, questa è una domanda alla quale è difficilissimo dare una risposta compiuta in pochissimo tempo, perché io sono una persona cresciuta in una cultura politica che ha preso il meglio da qualunque cosa. Noi non abbiamo mai avuto i libretti rossi in cui ti dicevano in che cosa potevi credere, per cui... voglio dire, nel mio Pantheon politico c'è sicuramente, che so, Ernest Jünger per il Trattato del Ribelle, ma ci sarebbe Karol Wojtyla per il tema della memoria, dell'identità, della nazione. Ho letto dei passi di Pierpaolo Pasolini, per dire, no? Che parlava della destra divina, che mi sono piaciuti molto. Potrei citare Marcello Veneziani per quello che è, insomma, oggi lo considero uno dei pensatori. Pietrangelo Buttafuoco ha scritto dei romanzi straordinari. Ce ne sono tanti di pensatori della destra, ma insomma, fino ad arrivare all'uomo ragno, no? Diciamo, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Mi piace prendere il meglio di tutto, non ho preclusioni nelle letture, nella musica, e penso che sia stato un errore considerare soprattutto per esempio gli artisti una cosa o di destra o di sinistra. Io mi piaceva Guccini, per dire, come la Compagnia dell'Anello, che invece era un gruppo di rock identitario, e ho preso sempre tutto quello che mi piaceva. Il meglio che poteva. Grazie. Grazie, onorevole Meloni. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora Mario, titolo del faccia a faccia? Ho trovato dei meloni nel campo Hobbit. E tu Pietrangelo? Non sindaco, piuttosto podestà. Accidenti. Tantissimi messaggi, tantissimi messaggi per la Meloni, devo dire. Pochi insulti, molti complimenti. Giorgia, vorrei che fosse mia figlia, Anna da Lucca. Mamma mia, si può essere più o meno politicamente d'accordo con la Meloni. Io sono in disaccordo, ma una politica veramente in gamba la voterei per Roma. A Roma mi pare di capire che non ci vuole andare nessuno. Roma Fare sindaco di Roma mi sembra che sia allora, ci sono tre, per questo ci vuole il podestà. Ci sono tre mestieri molto pericolosi. Il primo è dirigere oggi una società finanziaria, una banca, eccetera. Il secondo, scherzi, una compagnia aerea. Il terzo è fare il sindaco di Roma. Hai dimenticato il quarto. Qual è? A Sicilia. Ma quello intanto basta abolire l'autonomia. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, canzone. Giore, giore, giore, dottorato, lavore ca, per essere rotocio. Giore, giore, giore, di primavera, se tu non va bene, io moro ripera. Non canto né pa morì, né pa amanti, ca non me passava tu, per la mente. E per la donna mia, ca non te ori. E per la donna mia. La donna tua chi è stavolta? Non ci crederete, però oggi in metropolitana c'era un ragazzo maschio. C'era un ragazzo che leggeva il mondo come volontà e rappresentazione, sì, sì. E tutto il silenzio dei pendolari, che era vestito di ferraglia in movimento, si trasformava in una sarabanda tutta allegra. E quindi c'era chi si trovava una tromba, chi un trombone, chi il clarinetto, e fu tutto un muovere di anche, di braccia e di baci lanciati di fiore in fiore. È solo questa canzone di Roy Paci, richiesta da Angelica. Da Angelica per Tancredi, poteva dare il senso di questa mattinata tutta di sorrisi con Roy Paci e i Ciuri. Da senti, Schopenhauer a Roy Paci. Ti voglio dire una cosa: la Meloni sfonda a sinistra. Perché non dice, è possibile. Non sono di destra, ma mi piace molto la Meloni. Peccato sia di destra, ma la voterei. Hai capito? Mi ricorda un commento di Castagnetti, il buon Castagnetti, che saluto se ci ascolta, non si sa mai, che commentando le elezioni americane e la vittoria di Bush dice: Bush vince ma non sfonda. Sembrava dici. Vince ma non sfonda, bravo Castagnetti. Senti, la tua bolla cattiva, che non è mai cattiva. Apriamo qual un dibattito. È? Voglio fare un dibattito con te. E Pietrangelo, vai con Bill Conti, tiriamolo su in regia, ragazzi. Allora, ma insomma, era in fase un po' da Rocky il Papa a Firenze, diciamoci la verità. È sceso allo stadio e ha fatto un discorso sulla Chiesa che a me un po' ha colpito. Perché? Ma dice: basta potere e ricchezza. Ora, è interessante perché, insomma, se guardiamo la cosiddetta long durée, no? Quindi non tanto sul subito, ma guardiamo i vent'anni voitiliani, insomma, tanto per essere chiari. Lì c'era un monarca della Chiesa, perché il Papa è un monarca, che era Giovanni Paolo II. Ma se la Chiesa era solo tutta questa roba, allora il monarca ha delle colpe. Però poi stamattina ho letto Repubblica, Paolo Rodari, ho letto che è sempre molto bravo, puntuale, e dice: ruinismo addio, non Wojtyla. Non è che è un capro espiatorio. No, non è un capro espiatorio. Wojtyla si occupava della politica internazionale. Il suo obiettivo era l'Unione Sovietica, battere il regime. Dell'Italia, però, secondo me, un po' non gli interessava. Era delegata a Ruini. E quindi non è un capro espiatorio il buon Ruini. No, insomma, sì, i capri espiatori mi pare che. Perché era iperbolica la cosa, molto, molto combattuta, secondo me. Non so. Pietrangelo, tu che ne dici? Sai, è sempre ingerenza in stati altrui. Va bene. Ieri ad Amburgo, a 96 anni, è morto Helmut Schmidt, il primo grande riformatore della sinistra tedesca. Ancora oggi il cancelliere più amato e rimpianto del suo paese. A 65 anni si è ritirato dalla politica. Ecco, a proposito di questo ritiro, delle motivazioni di questo ritiro, sentite cosa mi diceva in un faccia a faccia dell'85. Signor Schmidt, lei è un grande della politica mondiale che a 65 anni si è messo in pensione. Perché lo ha fatto? Vorrei ora avere un po' più di tempo per i miei interessi culturali, per interessi scientifici e per i miei interessi giornalistici. Ecco, ma a 65 anni non è un po' presto lasciare la politica? Dipende molto dal gusto personale dell'individuo. Ci sono delle persone che vanno soltanto più tardi, arrivano più tardi al vertice, ed altri che considerano così importante arrivare al vertice che aspettano. Quindi abbiamo per esempio il presidente Pertini, che è un po' più anziano di me, però Grande. Non era tutto lì, ma pazienza, andiamo avanti. Avete saltato un pezzo in cui spiegava ancora meglio il perché i giovani. Vabbè, Salamino. Domanda che ci domandiamo, e quindi domandatemi, insomma, fatemela questa domanda, Mario, Giovanni, fatemi questa domanda. Facciamo la domanda. Dove è più facile assumere clandestini? Dove è più comodo far entrare dentro i confini italiani? Dove? Gli stranieri, vittime dei trafficanti di carne umana, dove? Oh, la tratta dei migranti ha una base. Dove? E la regione siciliana. Mi sembrava che mancasse. Dove, grazie allo statuto speciale, è agevole assai offrire una copertura professionale, tant'è vero che un funzionario della regione è stato fermato, arrestato per traffico illegale di migranti. E sapete cos'è? Cos'è? Ma stiamo attenti però, No, un attimo. E l'operazione Golden Circus. 41 persone sono attualmente in stato di fermo. L'accusa è traffico illegale di migranti. 600 clandestini sono entrati in Italia, presi a servizio, grazie alla legislazione speciale della regione siciliana, nel ruolo di prestigiatori, trapezisti, staglieri, giocolieri, funamboli, moschettieri, clown, domatori, mangiatori di fuoco, lanciatori di coltelli, donne cannone, donne barbute, tutti provenienti dall'India, dal Pakistan e dal Bangladesh. E sono stati costretti a pagare dai 15.000 euro ai 20.000 euro, e tutti passavano attraverso assunzioni fittizie, e i circhi coinvolti, perfino il Vienna Roller e gli altri della grande tradizione circense, dovevano per forza trasferire la loro sede legale in Sicilia. Requisito fondamentale, infatti, questo per dire che grazie a questa meravigliosa autonomia regionale lì si poteva benissimo arrivare in Italia, e il funzionario addetto poteva infiocchettare un affare di 7 milioni di euro. Insomma, le vie dell'autonomia sono infinite. È pazzesca. Vabbè, hanno trovato il modo di ripianare il deficit, il piccolo debito. Ovviamente conteggiato in nero, come dicevamo ieri col PIL. Senti, bolla Mario. Un pezzo di Prince, sentilo un po'. Allora, a Cuba succedono cose meravigliose. Da quando Obama ha aperto tutti, riaperto tutti i canali diplomatici con l'isola che fu di Fidel Castro, ancora lo è, anche se c'è il fratello, eccetera, si vedono dei risultati straordinari. E infatti stamattina, insomma, abbiamo appreso che una flotta di navi militari cinesi è giunta nell'isola per consolidare, questo è lo statement ufficiale, i rapporti tra le due forze armate. Questa non è male. Senti, perché è meraviglioso. È la prima volta che navi militari cinesi arrivano a Cuba, afferma il comandante Wang Jianxun. L'arrivo della Come flotta... Come si chiama il comandante? Wang Jianxun. Io non so se... Però, sai, cinese non dai, è il mio forte. L'arrivo della flotta cinese al porto della Havana è stato salutato da colpi d'artiglieria a salve. Ora, voi immaginate il capolavoro. Sì, prima c'era l'URSS, ora è arrivata la Cina. No, voglio dire, quando hai detto il nome, lo ripeti? Wang Jianxun. No, perché mi ricordavo una cosa che sicuramente gli ascoltatori di una certa età ricorderanno. Qual che era... I fixed Chen, ve la ricordate cos'era? No, lancio cos'era? Un concorso, altro che canzoniere. Cos'era? Qualcuno che la sente se lo ricorderà, arriveranno i messaggi. Sì, ma qual è? Cos'è? Vabbè, è perché vuol dire che sei casto. Dai. No, i fixed Chen, ti ricordi? Sì, cos'era? Ma cos'era? È una cosa sporcacciona. Ma dai, su, canzoniere, va. Canzoniere. Niente, non parte niente oggi, regia. I computer sono bloccati, tutte le memorie sono saltate. Lanciamo quindi come calzini. Anche se la Radio 24 sta migliorando la sua performance pubblicitaria, sta migliorando tutto. Il suo EBITDA, sta andando meglio, i computer sono impallati. Io sto parlando alla nostra direzione. Vuoi che faccio un balletto? No, voglio canzoniere della memoria, non lo sai. Eccolo! Stormi d'uccelli neri, come soli pensieri, nel vespero migrar. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Se funzionano i computer, allora vorrei rifar sentire tutto il pezzo nel quale Schmidt, che è morto ieri ed è stato uno dei grandissimi del Novecento, ci spiegava perché lui a 65 anni si è ritirato dalla politica. Per favore. Signor Schmidt, lei è un grande della politica mondiale che a 65 anni si è messo in pensione. Perché lo ha fatto? Vorrei ora avere un po' più di tempo per i miei interessi culturali, per interessi scientifici e per i miei interessi giornalistici. Ecco, ma a 65 anni non è un po' presto lasciare la politica? Dipende molto dal gusto personale dell'individuo. Ci sono delle persone che vanno soltanto più tardi, arrivano più tardi al vertice, ed altri che considerano così importante arrivare al vertice che aspettano. Quindi abbiamo per esempio il presidente Pertini, che è un po' più anziano di me, però funziona magnificamente e io sono tra i suoi grandi ammiratori. Io trovo che alla sua età si può essere senz'altro presidente italiano. Senta, ma a parte il suo caso personale, allora lei non pensa che il ricambio in politica sia importante? Cioè l'età è una variabile, indipendente o no per la politica? No, c'è anche bisogno di gente più giovane nella politica. Si dovrebbe mescolare i due fattori, ma io non ritengo che i giovani devono essere alla testa di tutto. Penso che l'esperienza e la maturità ci vogliono. Ecco, ma in questi 3 anni nostalgia per la politica attiva non ne ha mai avuta? 2 anni e mezzo, insomma. No. Mai. Ma e se lo chiamassero, andrebbe a fare il Presidente della Repubblica? No. Beh, però, ha detto no. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. 4 giugno 1918. Caro reverendo, non pensi che sono giù di corda, ma da quando sono partito volontario mi sento come un moscerino in un grande ingranaggio. È che vorrei credere che Dio è anche in questa guerra, piuttosto che essere solo uno spettatore, e che ci sostenga in quello che di buono c'è in ognuno di noi. Non so se Dio va avanti a forza di eserciti, ma so per certo che Egli è nei cuori di molti dei nostri uomini, altrimenti... Purtroppo non riusciamo a far sentire le cose interessanti che dicevo. Davvero questi computer un po' problematici. Mario, c'è ancora una... Il canzoniere ha vinto qualcuno? Allora andiamo in pubblicità e aspettiamo se almeno il telefono funziona. Mix 24. Mi sembra che i riferimenti di Pietrangelo siano stati accolti in una certa generazione che fra di loro si parlano di cose strane. Te lo dicevo, molto... lo indovinavo. Mamma mia. Io devo anche fare una precisazione sul nome, perché Antonio Talia, che è un esperto di queste cose, mi dice che la pronuncia del comandante di Pechino è Wang Jiangsun. Perfetto. Non so se corrisponde a quello di Pietrangelo, ma intanto Antonio da Roma per il canzoniere, che forse tiriamo un po' su il nostro discorso di Antonio. Il dibattito. Sì, eccomi, sono in linea, spero che mi sentiate bene. Sentiamo benissimo, eccezionalmente funziona il suo telefono. Dica. Allora? San Martino di Carducci. Giusto. San Martino, benissimo. Gli bravo. Applausi. Bravo, applausi, grazie. Mario, fai ancora una bolla, sì, per favore. Svelatemi Gecko. I più di questi laureati di Howard non valgono un cazzo. Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. A volte vinci, a volte perdi. Ma continui a combattere. E se vuoi un amico, prendi un cane. Oh, fantastico. Allora... Gecko è riuscito a penetrare nei computer e a fare la sua parte come si deve. Allora, due cose che riguardano il vivacissimo mercato della birra di cui noi abbiamo parlato. Certo, abbiamo parlato in passato. In passato, sì. Nelle scorse puntate. Allora, la prima è che Carlsberg, nonostante, che è un grande marchio, sì, nonostante l'ultimo trimestre non sia andato bene, sta salendo in borsa perché ha annunciato il taglio del 15% della sua forza lavoro. Quindi... diciamo, hai non buoni risultati sul fronte dei ricavi, però il mercato reagisce bene sulle ristrutturazioni. Quindi... L'altra cosa è che c'è un altro grande gruppo, il più grande del mondo, la Saab Miller, i cui titoli stanno salendo dell'1.3% in questo momento perché ha annunciato l'acquisto della formalmente l'acquisto della InBev, di cui noi avevamo già parlato. Quindi insomma è un mercato molto vivace da seguire. Secondo me, perché oltre ai soldi ci sono anche gli stili di vita e di consumo, certo, della contemporaneità che cambiano, sì. Sì. Ecco, Lucio da Bologna ci scrive, però io non lo capisco cosa vuol dire grande buttafuoco. Gabriel Pontello porno, sì, fotoromanzi. Gabriel Pontello erano le tue letture, erano i porno fotoromanzi. No, dico, state attenti, il nostro intellettuale Gabriel Pontello. Meno male, no, che è un intellettuale. Si scoprono le cose. Bene, molto bene. Sono stato io stesso a proporre questo, certo, scusa, dopo tu che hai detto li facevo difficili, esatto. E Shakespeare io non messaggio lo indovinavano dalla Cina. E Leopardi non lo indovinavano. Gabriel Pontello subito. Giovanni, continuano a scrivermi dalla Cina. Il comitato permanente del Politburo mi perdona solo perché ho messo Prince. Scusa, ma in Cina a quest'ora non devono dormire, no. tutti svegli per Mario. Tutti svegli, ma hai capito, siamo famosi in Cina. Vabbè, adesso intanto con il professor Roberto Bernabei commentiamo, come al solito, le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. The Lancet, 17 ottobre 2015. Il Giappone come modello per le future società super invecchiate. Cioè? Bisogna andare a vivere in Giappone dopo una certa età? No, bisogna dire che però il Giappone si pone il problema, come forse noi in Europa non facciamo. Perché il Giappone è certamente il paese più vecchio del mondo e se la batte con l'Italia, peraltro, sì, perché c'ha il 25%, cioè uno su quattro ha più di 65 anni. Noi siamo al 24, quindi siamo proprio sotto. Beh, allora il Giappone si è posto il problema. Si è posto il problema è la politica, perché poi questi sono problemi che non sono dei tecnici, sono della politica. La politica si è riunita per qualche giorno e ha cercato di vedere quelli che sono i problemi da affrontare e si è fermata sostanzialmente su due cose. Uno, sulla demenza, perché ad oggi, ed è certificato, rischiamo di arrivare quasi tutti a 90, molti a 100, però il 50% dementi. E quindi bisogna contrastare perlomeno con una riorganizzazione della società, e questo è quello che ci viene detto dai giapponesi. La seconda, proprio la necessità di un cambio di paradigma, non è più da semplicemente curare i vecchi perché ovviamente stanno male o stanno peggio del giovane adulto perché sono loro che hanno ovviamente più malattie. È proprio averci un approccio globale che coinvolga, ma che devo dirvi, le case devono essere costruite in un modo semplice per tutti, quindi in primis per i vecchi, quindi con dei bagni, dei corridoi, dell'assenza di scalini o di spigoli che siano facilitatori della vita, ma così anche i servizi nella comunità. Insomma, bisogna creare un mercato per un mondo che non è più quello che siamo abituati a pensare. Il mondo dei bambini, dei giovani adulti, è un mondo che non esiste praticamente più. Bisogna inventare un modo nuovo di abitare. Per esempio, e bisogna pensare che c'è un enorme mercato da soddisfare in modo politicamente intelligente e imprenditorialmente, commercialmente valido. Molti ci chiedono perché non abbiamo parlato dello scandalo doping della Russia e rispondiamo dicendo che stiamo preparando una puntata, che racconta come la guerra fredda tra russi e americani si è giocata anche attraverso lo sport. Per chiudere, più cantata da Ornella Vanoni e Jovanotti. Io più te uguale sarebbe ti amo se tu mi regali un po' d'allegria. Se giro per strada in tua corda.